presenta sicuramente, come è sempre stato nella storia del Movimento 5 Stelle, come una ratifica. Si capisce da come è formulato il quesito e si capisce anche dal fatto che se si è deciso di fare questa consultazione era per rinforzare la scelta che era stata già presa, per evitare che cadesse solo sulle spalle di Maio e dei vertici, e anche perché evidentemente si ha contezza del fatto che la base non vuole che questo governo cada e appoggia nel merito, non solo nella forma, la strategia sui migranti di Matteo Salvini. Quindi insomma serve più per l'opinione pubblica e per l'immagine del Movimento 5 Stelle che come scelta politica in sé. È molto strana questa decisione, che fino a qualche giorno fa non ce la saremmo mai aspettata. Intanto perché è un fatto che negli ultimi 6 mesi la piattaforma Rousseau è stata completamente marginale, quantomeno marginale in qualsiasi dinamica interna al Movimento 5 Stelle. Non ci sono leggi che sono state discusse su quella piattaforma, non sono state fatte altre consultazioni, non viene mai menzionata. Solamente venerdì scorso Di Maio ha fatto una conferenza stampa per presentare i suoi alleati europei, sono partiti diversi che vengono messi tutti sotto il cappello della democrazia diretta, e questa democrazia diretta per Di Maio era il referendum propositivo che stanno discutendo in Parlamento, non ha neanche menzionato la piattaforma Rousseau. E così come proprio nei giorni scorsi è emerso che molti parlamentari iniziano a essere sofferenti di alcune dinamiche pervasive dell'associazione Rousseau rispetto alla restituzione degli stipendi e la violazione della privacy. Dunque questo protagonismo improvviso della piattaforma Rousseau suona quantomeno sospetto, quantomeno inaspettato, ecco, ed è sicuramente un segnale di debolezza. Tu prima hai evocato la questione della democrazia diretta, noi abbiamo sentito Sandra Bonsanti di Libertà e Giustizia che sulla questione metodologica poneva l'allarme, insomma, se si decide anche su una questione così importante attraverso uno strumento appunto come una piattaforma, si va verso una democrazia plebiscitaria. Questo, al di là del Movimento 5 Stelle, è un ennesimo episodio in questa direzione? Anche qui bisogna stare molto attenti. Io sottolineo invece quanto sia... È chiaro che questo tipo di allarmi sono da prendere sul serio e vanno sempre considerati, ma in questo caso quello che risalta è ancora più che questo tipo di allarmi sul plebiscitarismo è la platea molto ridotta che si esprimerà su un provvedimento che in fondo determinerà appunto la sopravvivenza stessa del governo. Questo non ne fa mistero nessuno. Ci sono iscritti, gli ultimi dati disponibili dicono che alla piattaforma Rousseau sono iscritte 135.000 persone e però a tutte le votazioni ultime, anche quella decisiva per eleggere il capo politico Di Maio, quindi probabilmente la decisione più importante che è stata presa negli ultimi anni, hanno partecipato meno di 40.000 persone. Pur di far iscrivere i simpatizzanti alla piattaforma è stato attivato una possibilità di iscriversi via SMS senza neanche andare su internet, quindi il mito del popolo che vive su internet e da lì ricostruisce la democrazia crolla per la stessa missione dei gestori della piattaforma. Quindi quello che risalta, l'anomalia di questa storia, è esattamente questa: in un momento di debolezza politica si ricorre a uno strumento che dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo è veramente, rispetto a un partito, al primo partito italiano, almeno a parte i sondaggi, cioè il partito che ha conquistato più voti, ha preso milioni di voti, fa decidere il suo destino a poche migliaia di persone, e questa è l'anomalia principale. A proposito di sondaggi, è uscito un sondaggio europeo che vede la Lega di Salvini come primo partito a livello europeo. Da questa vicenda della 18, quindi, come dire, si prefigura un'uscita per Salvini in un caso win-win, sia che appunto venga data l'autorizzazione che venga negata? Direi di sì, nel senso che lui sicuramente potrebbe fare una campagna elettorale tutta giocata sul suo ruolo di difensore della patria, dei sacri confini, contro la magistratura e contro anche tutti quelli che lo vogliono condurre a processo. È vero anche che questo tipo di consensi, abbiamo visto che queste bolle di consenso esplodono a un certo punto, quindi Salvini non si fida così tanto della pura macchina propagandistica, e infatti ha cambiato toni a un certo punto quando ha capito che questo processo poteva celebrarsi veramente. Ha smesso di dire che non voleva farlo, ha chiesto esplicitamente di essere l'immunità e ha chiamato Di Maio alle sue responsabilità. Questo fa capire che anche lui ha ben presente che la situazione è molto più complessa e che il consenso è molto volatile in questa fase. A proposito della sopravvivenza del governo, lo stesso Salvini ha detto che anche qualora gli iscritti del Movimento 5 Stelle, insomma la piattaforma Rousseau, venisse l'autorizzazione a procedere, la sopravvivenza del governo non sarebbe a rischio. È una dichiarazione di circostanza? Io penso di sì, perché cioè, c'è il problema, si creerebbe un problema tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma verrebbe clamorosamente screditata i vertici del Movimento 5 Stelle e la loro idea di alleanza sempre più stretta con la Lega. Tutta questa storia della 18 in fondo non ha fatto che rappresentare l'ennesimo cedimento strutturale del Movimento 5 Stelle, o almeno della sua dirigenza attuale, del suo stato maggiore, verso posizioni sovrapponibili a quelle di Salvini. Per cui se dovesse arrivare un'improbabile bocciatura alla strategia, il governo sicuramente ne risentirebbe. Anche se è vero che le voci che si dicono a favore del processo dentro il Movimento 5 Stelle, nella quasi totalità dei casi, penso a Roberta Lombardi, Nicola Morra, ai sindaci delle principali città, poi ci tengono a precisare che loro comunque condividono la linea politica di Salvini sull'immigrazione, semplicemente vogliono che il processo si tenga perché è giusto così, ma non hanno obiezioni di merito rispetto alla linea salviniana e rispetto quindi all'alleanza giallo-verde.